Thank you. Thank you. ti treba da vidiš, da ti na Thank you.

Thank you. La mia scaletta. Scusate, non è una la mia scena. Adesso fuori più da. Di più da. Questa è scala, forse ne sarà cercare anche bene. Poi ogni dicembre. Dai, mi andiamo a scrivere che è promosso. Poi sotto una mascoletta. అవన్నీ చూసుకురా Thank you. na prašnu kapu.

三天好。